Ciao a tutte le ascoltatrici e a tutti gli ascoltatori di Ponte Radio. Sono Salvatore e con me c'è Massimiliano che saluto. Ciao Salvatore, ciao a tutte, ciao a tutti. Nella puntata di oggi cercheremo, insieme alla nostra ospite, di decostruire tutte quelle narrazioni e quindi pregiudizi e stereotipi di quando si parla di persone senza dimora e cercando con la nostra ospite che è Daniela Leonardi di arrivare al nocciolo della questione che sono le inefficienze delle politiche sociali. Io presento Daniela che saluto. Ciao Daniela. Grazie Ciao, buonasera a tutti e a tutte, grazie dell'invito. a te. Daniela è assegnista di ricerca dove si occupa di sociologia applicata nell'ambito del welfare, si occupa da tanti anni di homelessness, grazie soprattutto a diverse ricerche universitarie, lavorando nei servizi di accoglienza e di comunicazione pubblica. E per Eris Edizioni ha pubblicato il libro La colpa di non avere un tetto. Partiamo con la prima domanda. Perché gli homeless vengono sempre chiamati invisibili, quando invece sono persone con corpi e caratteristiche ben definite? Sì, mi sembra un ottimo punto di partenza, grazie. Io credo che la questione dell'invisibilità sia una questione classica quando si parla di homelessness e da una parte penso che sia un errore parlare di persone invisibili e che al massimo sia preferibile parlare di persone che vengono invisibilizzate, perché appunto, come dici tu, sono persone reali e che si vedono e come. La questione che si vuole sottolineare quando si accosta al concetto di invisibilità è spesso la mancanza di diritti. Un esempio tra tutti può essere la questione della residenza, che impedisce loro di poter godere di alcuni diritti fondamentali, e penso per esempio al diritto alla salute, e su questo come approfondimento consiglio per esempio il lavoro del progetto Avvocato di Strada, che è una realtà che si occupa della promozione e della tutela delle persone che sperimentano la condizione di senza dimora. Quindi il fatto di essere in una condizione irregolare per quello che riguarda la residenza, per esempio, può precludere il diritto all'assistenza sanitaria, e quindi se in teoria dovrebbe essere garantita a tutti coloro che dimorano, per esempio in Italia, il requisito però della residenza viene definito come presupposto necessario per l'accesso e l'assegnazione, ad esempio, del medico di base. Per questo motivo, per chi è privo di residenza, spesso l'assistenza di base non è garantita, sono garantite solo le prestazioni di pronto soccorso e inoltre non è possibile accedere ai consultori, per esempio. Su questo c'è tutta una campagna in corso che sta portando a dei grossi miglioramenti rispetto appunto all'assistenza sanitaria anche per le persone senza dimora, però questo riguarda per esempio anche il diritto all'assistenza sociale. Se non si ha una residenza che sia reale o che sia fittizia, per esempio, non si può essere presa in carico dai servizi sociali, e la questione è anche lavorativa, perché per la partita IVA è necessaria una residenza, per esempio. E invece, se per quello che riguarda il lavoro dipendente è sufficiente il domicilio, allo stesso tempo è innegabile che se le persone si trovano, per esempio, con una residenza fittizia, questo crea subito dei pregiudizi e soprattutto dello stigma, che è una delle parole chiave della nostra intervista. Quindi io credo che piuttosto appunto parlerei di persone invisibilizzate nel discorso pubblico, nel senso che spesso sono persone che vengono raccontate invece di potersi raccontare in prima persona e potendo esprimere quelle che sono le loro opinioni, i desideri, le preferenze e quant'altro. Però la questione della mancanza di residenza che fa perdere loro la possibilità di godere di alcuni diritti di cittadinanza è una scelta politica. Questo è un aspetto importante da mettere in luce, per questo che preferirei si parlasse di persone invisibilizzate, nel senso che sono delle scelte, si può fare diversamente, si sta in alcuni casi facendo diversamente. Per esempio, facevo proprio solo un brevissimo cenno al fatto che si stanno facendo degli interventi per quanto riguarda l'assistenza sanitaria. E l'ultimo aspetto sulla questione visibilità e invisibilità, che mi pare interessante sottolineare dal punto di vista analitico, visto che mi hai fatto questa bella domanda, è anche la possibilità del suo ribaltamento, nel senso che noi possiamo anche parlare di diritto all'invisibilità. E questo è un aspetto importante, nel senso che le persone senza dimora possono soffrire il fatto di sentirsi sempre, adesso uso una terminologia che fa riferimento al lavoro di Goffman, e quindi possono soffrire il fatto di sentirsi sempre alla ribalta e quindi esposti agli sguardi anche mentre compiono delle attività quotidiane che sono routinarie e che chiunque di noi diciamo svolge. E lontano da sguardi indiscreti. Può essere molto spiacevole sentirsi sempre osservati, e anche a volte il fatto che i servizi di assistenza, come quelli per esempio di distribuzione pasti, possano essere organizzati di modo da compiersi direttamente sulla strada, anche questo quindi implica uno sguardo costante dei passanti e può mettere in difficoltà le persone. Quindi questo, diciamo, è un ulteriore aspetto da considerare e che non va perso e che invece spesso non viene messo in evidenza. Quindi, diciamo, anche il diritto per loro, a essere, nel retroscena e non sempre alla ribalta è una questione che secondo me è importante menzionare. Grazie, Daniela. Io ti volevo chiedere, nel corso degli anni, ma soprattutto dopo la pandemia di Covid, abbiamo assistito a una depoliticizzazione della questione dei senza dimora. Secondo te, perché si è deciso di rappresentare quello che poi in realtà è un problema politico e sociale come fosse una scelta di vita, libera? Ma io credo che la questione della scelta di vita cosiddetta, credo che ci sia sempre stata e ritengo che sia funzionale alla deresponsabilizzazione da parte della politica istituzionale. Questo, per chiarezza, diciamo, non vuol dire che io ritenga che in termini assoluti non ci possono essere delle persone che per i motivi più disparati possono scegliere di abitare in altri modi, ma penso che però quella della scelta di vita sia una retorica che assolve a precise funzioni. Prima si faceva riferimento nell'introduzione, Salvatore faceva riferimento al saggio divulgativo che ho scritto per Eris Edizioni, che appunto è La colpa di non avere un tetto. Homelessness tra stigma e stereotipi, e rispetto a questo tema io lì faccio per esempio riferimento alle dichiarazioni di quello che nel 2021 era il capo dei vigili di Torino e che dichiarava niente elemosina agli homeless, per loro il centro cittadino è un bancomat. A noi dicono che stanno bene e che guadagnano. Se si leggeva l'articolo, il tenore delle dichiarazioni peggiorava ulteriormente perché lui dichiarava che stare in centro è per loro molto redditizio, che queste persone guadagnano tanti soldi, tanti come la gente nemmeno immagina. Questo è proprio un virgolettato. E continuava, diciamo, con la solita retorica legata al fatto che a chiunque sono offerte delle soluzioni, lui faceva riferimento alla città di Torino, e che se vengono rifiutate vuol dire che le persone senza dimora che le rifiutano non hanno davvero bisogno. E qui addirittura ci si spinge a parlare di notevoli fonti di guadagno ottenute facendo l'elemosina, e invitava le persone a non donare del denaro. Però negli stessi media raramente si entra nel merito di quali sono queste cosiddette soluzioni, quali condizioni comportano per chi ne beneficia e dunque se si tratta di interventi di tipo condizionale e se sì di che tipo, se sono degli interventi che prevedono per esempio la possibilità di accogliere delle coppie o se invece no, se l'accoglienza è di tipo temporaneo e se sì di quanto è la durata, per scendere più nel dettaglio e fare proprio degli esempi specifici. Quindi io credo che invece di rilasciare delle dichiarazioni che risultano superficiali a chi ha conoscenza della complessità del fenomeno e dall'altra parte riproducono stereotipi e cliché come quello del sentirsi liberi, che purtroppo non manca nell'articolo a cui faccio riferimento, e, appunto sia problematico perché non si fa una corretta informazione e appunto per chi ha conoscenza risulta superficiale e fuorviante, per chi non ha una conoscenza specifica del fenomeno riproduce degli stereotipi e dei cliché, e chi quindi, cioè penso che chi ha a che fare per ricerca o per lavoro nei servizi o per esperienze più o meno dirette con questa problematica sociale raramente per esempio ha sentito parlare o ha sentito dare come argomentazioni quello del voler sentirsi liberi. Sicuramente ci sono degli aspetti di tipo razionale, affettivo, per cui le persone che si trovano in certe condizioni fanno delle scelte e forse si potrebbe stare più su quello, soffermarsi, dare spazio alle motivazioni, capire quali sono, diciamo, le mancate, diciamo, corrispondenze tra bisogni e esigenze delle persone e possibilità offerte, per vedere appunto dove si interrompe questa possibilità invece di accoglienza. Inoltre una cosa ancora da sottolineare secondo me è che nello stesso articolo il capo dei vigili nel 2021 dichiarava che a Torino non muore nessuno perché si trova senza casa, e l'osservatorio FIOPS quest'anno ha rilevato una cifra di morti record in negativo, e che è importante riportare in un'intervista come questa, che è una cifra di 434 decessi a livello italiano, si intende, quindi non per fortuna assolutamente non sul locale, non sul territorio torinese, però è veramente grave invece la condizione delle persone che vivono in strada, quindi dipingerla diversamente. Insomma, mi sembra problematico perché l'anno scorso, diciamo, c'è stata più di una morte al giorno, e quindi, insomma, è molto grave. Quindi, in conclusione, diciamo, sono d'accordo assolutamente con quello che dicevi tu, Massimiliano, rispetto al fatto che il fenomeno homelessness vada sicuramente ripoliticizzato, e questo si può fare mettendo bene in evidenza quali sono le cause strutturali che portano strati sempre più ampi della popolazione, con caratteristiche anche diverse, a non riuscire a sostenere i costi delle abitazioni, a non vedersi garantita una soluzione abitativa che sia dignitosa. Questo penso che sia quello che dobbiamo fare. Una cosa che mi è balzata agli occhi, diciamo, leggendo il tuo libro, è che tu parli di guerra ai poveri e non alla povertà. E poi ci ho riflettuto, perché se pensandoci, soprattutto negli ultimi anni ci sono state leggi contro l'immigrazione, la lotta contro il cosiddetto degrado urbano, ad esempio anche il DDL 1660, e hanno fatto sì da rafforzare questo tuo pensiero. E poi soprattutto le persone che vivono in grave emarginazione vengono criminalizzate perché occupano con i loro corpi uno spazio pubblico, e quanto il discorso pubblico sul, ad esempio, sul degrado urbano distoglie l'attenzione da un dibattito serio sulle politiche abitative. Sì, anche questa è una questione molto, molto rilevante. Io nel mio libro faccio una distinzione analitica tra persone che spesso vengono definite miserabili e che sono coloro che sono sprovvisti di un'abitazione e che si rivolgono perché vogliono farlo e oppure perché possono farlo ai circuiti dell'accoglienza, e coloro che invece non lo fanno. In questo caso si compie proprio una torsione, e nelle rappresentazioni più diffuse queste persone che invece non lo fanno diventano indesiderabili, responsabili del degrado degli spazi in cui vivono e devono essere allontanati con DASPO urbano o con misure simili che colpiscono appunto le persone povere e non certo la povertà. Rispetto al ruolo del diritto, possiamo per esempio fare qui riferimento al lavoro di Elisabetta Grande sul contesto statunitense, che scrive, parlando appunto del ruolo del diritto, lei scrive: il diritto crea il povero e si incarica successivamente di perseguitarlo. Questo è un aspetto importante che vediamo spesso come meccanismo, diciamo, attuarsi nelle nostre città. E vabbè, appunto, lei scrive nel suo libro Guai ai poveri, la faccia triste dell'America, appunto con riferimento agli Stati Uniti, quindi ancora più esacerbate tendenze di questo tipo. Però sì, la questione è che si passa appunto da essere miserabili se comunque quantomeno ci si reca nei servizi di accoglienza e diciamo in quel caso si è poveri meritevoli, non è proprio, è un po' tirata, diciamo, in questo caso da parte mia questa distinzione, questa definizione, nel senso che appunto intendo dire se si fa, più precisamente forse, se ci si comporta come la brava persona senza dimora, rispondendo alle aspettative e facendo quello che ci si aspetta, ovvero frequentando i servizi, probabilmente se si tratta di servizi a bassa soglia, sono dei servizi di contenimento, quindi non cambierà particolarmente la propria situazione, ma diciamo si sta in questo circuito per cui la notte si dorme in un determinato servizio, la mattina si esce, poi si va presso la mensa e via così. Quando per vari motivi, perché appunto possono essere legati alla volontà ma anche alle possibilità, perché ad esempio per accedere al circuito dei servizi di tipo pubblico banalmente bisogna avere un documento in regola e questo non è una condizione che accomuna tutte le persone che sono sprovviste di abitazione, diversamente non si può essere accolti se non nei circuiti privati della Chiesa, per esempio, anche se lì ci sono tutta una serie di altre regole molto stringenti, per cui spesso le persone non riescono a stare in quel tipo di regole, allora in quel caso si diventa indesiderabili e quindi appunto le persone vengono criminalizzate. Questo è di nuovo una parola chiave nella nostra chiacchierata di questa sera. Grazie Daniela. Io volevo un attimo riagganciarmi a una cosa che dicevi prima rispetto a quello che erano un po' gli stereotipi, no? Perché il problema è sicuramente politico, ma si nutre anche di una certa rappresentazione dei media che appunto si nutre di stereotipi e di narrazioni distorte, no? E quali sono, secondo te, appunto questi stereotipi più diffusi e come possiamo fare per decostruire la narrazione che i media fanno dei senza dimora? Oltretutto anche cercando di capire se come fanno ulteriori poi differenziazioni piuttosto che generalizzazioni razziste o discriminatorie di genere. Sì, c'è un'attenzione che viene perpetrata rispetto a un'attenzione appunto un po' morbosa rispetto alle singole storie, agli aspetti più, diciamo, in alcuni casi esotici di questa condizione, in altri quelli più legati alla miseria e alla difficoltà, che però dal mio punto di vista sono problematici perché non aiutano a generalizzare e a comprendere quelle che sono le cause che portano, diciamo, a trovarsi senza dimora, e soprattutto sono funzionali a mettere distanza tra, diciamo, un presunto noi omogeneo e un altrettanto presunto omogeneo loro, intendendo con questa distinzione, diciamo, le persone, tagliando proprio con l'accetta, con abitazione, e le persone invece senza dimora. I due fenomeni sono, cioè, diciamo, l'esistenza di queste categorie, che appunto non sono assolutamente dicotomiche, ma si tratta, c'è, cioè, un continuum, ci sono delle sfumature diverse. In alcuni periodi le persone possono trovarsi senza casa, alcuni esempi possono essere, appunto, che non sono quelli a cui pensiamo immediatamente, ma possono essere quelli degli studenti fuori sede che si trovano in un'altra città a dormire per dei mesi sui divani, perché ci sono delle città in cui la questione abitativa è davvero dura, al punto che è molto difficoltoso trovare un appartamento, così come appunto ci possono essere delle persone che hanno dei redditi irregolari e che scivolano in condizioni di, passano, diciamo, da condizioni di povertà più o meno severe del periodo, e quindi questo ancora aggiunge, diciamo, delle sfumature, mentre invece presentare delle rappresentazioni così stereotipate e stigmatizzate, per cui per esempio non ci riferiamo alle persone che hanno perso l'abitazione in seguito a un terremoto come persone senza dimora, questo perché appunto si tratta di un'identità fortemente stigmatizzata, questo serve dal mio punto di vista a mettere distanza. E poi mi chiedevi di rappresentazioni razziste e di discriminazioni di genere. Allora, rispetto a parte del fondo, l'ultima cosa che mi chiedevi, credo che la questione in questo caso sia quella di presentare questa popolazione in modo universale e dal punto di vista di genere, e quando si fa questa operazione qui, l'universale è in realtà il maschile, e quindi questo è problematico. E nel senso che il fatto di continuare a dire che una popolazione è prevalentemente maschile e dipende solo o in gran parte, diciamo, da come vengono rilevate le presenze delle persone senza dimora, se si fa principalmente riferimento alle presenze all'interno dei servizi di accoglienza o per strada, ci sono degli aspetti specifici da considerare. Chi vive per strada è più facile che sia uomo, perché ci sono delle difficoltà aggiuntive per le donne o per le persone socializzate come donne, insomma, che si sperimentano nella vita in strada, per cui spesso non si sentono, cioè si sentono molto in pericolo a farlo, quindi questo le espone però a rischi aggiuntivi, per cui magari si trovano ospiti, diciamo, oppure dietro pagamenti a vivere in delle abitazioni, per cui però non hanno il titolo legale per farlo, e quindi questo, diciamo, le espone a situazioni di ricatto e a forme di violenza diverse, però risultano meno visibili in strada, e quindi se si contano le persone che vivono in strada in un certo periodo di tempo, o prendendo come riferimento una notte specifica, sicuramente la fotografia che ne esce è una fotografia per cui la popolazione è prevalentemente maschile. Però appunto bisogna avere consapevolezza invece di quanto vi sto dicendo. Rispetto ai servizi di accoglienza è più sfumata la situazione, però anche qui sono servizi che principalmente vengono pensati per un'utenza maschile, o appunto in alcuni casi, come viene detto, non viene messa a tema la differenza di genere, quindi si parla di un universale, ma quello universale è maschile, e quindi questo è un problema per le persone con background migratorio. Ci sono tutta una serie di abitudini, di usi, di costumi che non vengono presi adeguatamente in considerazione nel circuito dei servizi di accoglienza, e poi c'è tutta invece una questione da considerare legata alla regolarità dei documenti, all'imparare, diciamo, la burocrazia. Adesso io qua faccio riferimento principalmente al contesto italiano, che è quello che conosco meglio, però è un tema che si può facilmente generalizzare, questo, e quindi imparare a districarsi in un sistema di regole e di burocrazie molto complicate, se si arriva da un altro paese, insomma, questo aggiunge tutta una serie di difficoltà, per cui è più facile che non trovino, cioè che ci voglia molto più tempo affinché riescano ad accedere a degli aiuti. Daniela, scusami, ma la crisi economica, la crisi del lavoro degli ultimi, diciamo, degli ultimi anni, che influisce sulla vita sociale e personale, può avere ripercussioni nella vita di tutte e tutti noi, soprattutto se non si è, diciamo, creati una rete di protezione, una rete di relazione che può proteggere. Sicuramente sì, mi viene da dire, nel senso che quelli che erroneamente vengono ancora chiamati contratti atipici sono in realtà le forme contrattuali con cui la maggior parte di noi è inquadrata al lavoro e quindi è molto facile che non abbiamo le garanzie richieste dalle banche, per esempio per accendere un mutuo, o che vengono richieste dalle agenzie immobiliari per l'affitto di un appartamento, e qua faccio ancora davvero riferimento alla busta paga a tempo indeterminato, che oggi è veramente appannaggio di una minoranza rispetto invece a come viene raccontato. Quindi c'è tutta la questione del lavoro povero da considerare, e quindi il fatto che anche le persone che lavorano non sono al riparo dalla povertà, e che spesso, soprattutto nei grandi centri della nostra, insomma, del nostro paese, non c'è un rapporto diciamo soddisfacente tra stipendio medio e costo della vita, e in particolare costo dell'abitazione. E quindi pensiamo, per esempio, a quando si era parlato del fatto che gli insegnanti che trovavano posto in graduazione, insomma, che venivano assunti, per esempio, in Emilia-Romagna, si lamentavano del fatto che con quello stipendio non riuscivano a vivere e che dovevano andare a vivere fuori città. Questo è un esempio, diciamo, calzante del fatto che anche il lavoro non mette al riparo dalla povertà. E una terza, diciamo, sfumatura di questo è legata al fatto che ci sono tante persone che hanno delle entrate che non sono spalmate in maniera regolare lungo tutto l'anno, e che quindi questo può rendere molto difficile dimostrare e avere una continuità di reddito. Quindi bisogna immaginarsi delle soluzioni che consentano anche a queste persone di poter accedere realmente a delle soluzioni abitative dignitose. Chiaro. Tu prima dicevi che il diritto crea il povero e si incarica di perseguirlo, no? E la criminalizzazione della povertà è ormai diventata una prassi in diversi paesi, praticamente è una cosa che possiamo vedere sia negli USA, dove per esempio tra il 2023 e il 2024 oltre 138.000 persone sono diventate senza dimora a causa dell'aumento dei prezzi delle case e degli affitti. E nonostante questo, le amministrazioni locali tagliano i soldi, diciamo, i fondi ai programmi che si occupano di questa problematica, e le amministrazioni locali di contro non si fanno problemi a perseguire la povertà come fosse appunto una colpa da espiare. E a livello, europeo, se possibile effettuare un raffronto, qual è la situazione allo stato attuale? Ma io credo che ci sia sicuramente una tendenza a proporre spiegazioni di tipo individuale rispetto alla povertà, e questo sicuramente lo vediamo appunto all'opera in diversi contesti, e quindi la criminalizzazione e la colpevolizzazione anche individuale rispetto alle proprie condizioni. Quindi si dice non riesce a pagare il mutuo, appunto come se fosse una questione appunto di buona riuscita individuale, non è stato in grado di trovare lavoro, eccetera. Quindi spiegazioni di questo tipo sono proposte con insistenza, e questo è un tema. Poi un esempio che si può fare, che abbiamo ancora fresco purtroppo in mente, riguarda appunto il contesto pandemico, in cui l'ingiunzione a stare in casa ha visto in un primo periodo le persone senza dimora chiaramente risultare molto più visibili del solito nei territori vuoti, e in una prima fase ci ricordiamo insomma tutti e tutte delle multe che insomma che e, questo poi ha diciamo ha smesso di essere così per l'intervento di associazioni e enti che si occupano di advocacy. Questo comunque va sottolineato, è servito quel tipo di intervento lì per dire ok, ma cioè, che senso ha tutto questo, e non possiamo parlare appunto di, cioè non può essere inteso come un comportamento non rispettoso della legge che veniva messo in atto di fronte a una problematica di questo tipo, perché vuol dire proprio non avere il polso, non rendersi conto di quello che sta succedendo. Quindi questo è sicuramente un tema. Poi chiaramente se guardiamo, cioè, i contesti, non penso che dobbiamo fare una classifica, però chiaramente se guardiamo agli Stati Uniti, quindi fuori Europa, non guardiamo mai a loro come un esempio da seguire, e là c'è proprio tutto un discorso anche di messa in prigione, quindi proprio di criminalizzazione anche da quel punto di vista. Qua però, se vogliamo invece tornare alle nostre latitudini, c'è tutta la questione del DASPO e delle ordinanze volte diciamo ad allontanare, a impedire l'accesso. Si è parlato in anni recenti di elemosina fatta in modo aggressivo, e ovviamente delle definizioni che non hanno, cioè che possono essere completamente discrezionali, di modo da poter consentire un intervento di questo tipo che no, di per sé non ha senso. Infatti, secondo te, i cosiddetti grandi eventi, ad esempio le prossime Olimpiadi a Milano, sempre a Milano 10 anni fa, l'Expo, il Giubileo a Roma nel 2000 e anche quest'anno, sono un motivo in più per criminalizzare i senza dimora? Le persone senza dimora. Lì forse non so se tanto per criminalizzare, però per allontanare sicuramente sì, diciamo sotto la cornice della riqualificazione delle aree interessate, perché chiaramente quello che si diceva prima, che dicevamo prima sul rapporto tra visibilità e invisibilità, il fatto che ci siano delle persone per strada che ricordano alle altre persone che passano come, nonostante si viva in delle società, nel nostro caso diciamo facendo riferimento all'Italia, delle società che insomma presuntamente fanno parte insomma di paesi che non sono il sud globale, ma che hanno delle differenze diciamo rispetto a queste, e in cui comunque si vorrebbe che ci fossero dei servizi di un certo tipo, e la narrazione rispetto al tessuto sociale, al welfare, e quella di una società che aiuta. Poi chiaramente trovarsi di fronte a persone che vivono per strada, ad accampamenti e quant'altro, mette in crisi quella narrazione, oltre al fatto che e spesso le amministrazioni locali vogliono che quelle aree interessate appunto da eventi, da turismo, eccetera, siano percepite come rilassanti, piacevoli, momenti di svago dalla propria vita quotidiana e quant'altro, e questo tipo di presenza interrompono quella narrazione. Quindi sicuramente in quel caso, in quei casi spesso succede che le persone vengono spostate, direi, allontanate, spostate. Come se poi si potessero vaporizzare, non dovessero trovare un altro posto dove stare sostanzialmente. Questo è. Certo, sono gli interventi delle nostre amministrazioni. Infatti, a questo proposito, abbiamo visto che il PNRR ha destinato alla questione abitativa una delle voci più basse in assoluto, circa 500 milioni. Evidente quindi il fatto che non poter contare su un tetto sia anche frutto di interventi pubblici totalmente inadeguati, no? E quanto aiuterebbe invece una politica adeguata, comunque a risolvere o quantomeno a sostenere la questione abitativa, e quali sono a tuo avviso gli interventi più urgenti da effettuare? Ma io penso che sicuramente l'edilizia residenziale pubblica sia un intervento importante di welfare abitativo e che non vada, diciamo, considerata in maniera residuale, ma che debba essere implementata e, molto più di come, insomma, di come siamo adesso, che è molto marginale. E nella città di Torino è nata una delibera di iniziativa popolare che si chiama Vuoti a rendere e che, diciamo, ha avuto il merito di porre all'attenzione la questione della requisizione delle case sfitte. Questo può essere un altro intervento. Lo scorso febbraio è stata discussa durante il Consiglio Comunale e tra i punti, diciamo, ha quello di promuovere l'uso sociale delle case vuote e il sanzionamento dei grandi proprietari, ovvero la possibilità di requisire gli alloggi e, dei proprietari con più di 5 alloggi lasciati vuoti per più di 2 anni. Questo ha visto, diciamo, durante il Consiglio Comunale addirittura accuse di bolscevismo, quindi insomma la tutela della proprietà privata fino all'estremo della tutela del diritto di speculare, perché qua stiamo parlando di questo, quindi grandi proprietari con più di 5 alloggi lasciati vuoti per più di 2 anni non è neanche, appunto, a mio avviso un intervento che se si esprime in contrarietà lo si sta facendo per tutela della proprietà privata. Qua siamo proprio alla tutela del diritto di speculare, mentre siamo in un contesto in cui la scorsa settimana abbiamo letto sui giornali del 31enne di Caivano che si è suicidato perché sotto sfratto. Ecco, io penso che questo non sia tollerabile, che non ci deve essere stigma né vergogna e che quindi una cosa molto urgente, sempre in termini di interventi, sia il blocco degli sfratti se non si è in grado di offrire un'alternativa dignitosa. Quindi, qualora questo fosse possibile, chiaramente va messo sul piatto come soluzione, ma se questo non è possibile e non c'è niente da proporre, allora non si possono buttare le persone per strada, e soprattutto i prezzi degli affitti devono essere correlati agli stipendi, perché se non c'è alcuna proporzione, questo rende davvero, cioè, amplia a dismisura la fascia di persone che veramente non possono accedere. E qua sto parlando di interventi più o meno che possono, diciamo, essere rivolti a una platea veramente ampia. Se andiamo più nello specifico, c'è tutta la questione, per esempio, del razzismo, per cui le persone razzializzate, anche se hanno garanzie adeguate, non trovano soluzioni sul mercato privato che non siano di grande sfruttamento, e di nuovo qui a Torino abbiamo numerosi esempi di questo. Daniela, noi ti ringraziamo per testimonianza e la tua ricerca soprattutto, quindi veramente grazie. A voi, mi ha fatto veramente molto piacere. Grazie, a presto. Ciao Daniela, grazie. Ciao, ciao Daniela. Ciao. We'll be right back.